Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Come avete sentito nel giornale radio, questa mattina si è tenuta a Milano, si sta concludendo proprio in questi minuti a Palazzo Mezzanotte, nella sede della Borsa Italiana, la relazione del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, la relazione annuale del presidente della Consob. Molti di voi sapranno che la Consob è l'autorità che vigila sui mercati finanziari, è l'autorità che si occupa della tutela degli investitori e quindi anche dei risparmiatori, dei piccoli risparmiatori. È l'autorità che definisce gli obblighi delle società quotate, obblighi di comunicazione di notizie al mercato, obblighi di comportamento trasparente, sempre nell'ottica di tutela generale della platea degli investitori. L'autorità è stata spesso chiamata in causa, in passato ma anche di recente, sui casi di borsa piuttosto eclatanti, sui quali molti avrebbero auspicato interventi più stringenti da parte appunto dell'autorità di controllo. L'ultimo, tanto per citare il più importante, il caso della rivoluzione proprietaria ancora non definita in casa Fondi Aria Sai, ma se ne potrebbero citare tanti altri di casi, come per esempio Alitalia qualche anno fa e non solo. Alcune novità riguardano poi il via libera che proprio settimana scorsa la Consob ha dato alla seconda tranche di semplificazione degli adempimenti regolamentari a carico degli operatori. Insomma, tante cose delle quali discutere, a partire dalle dichiarazioni molto forti che il presidente Vegas ha fatto questa mattina. Ha detto no all'innovazione finanziaria che brucia i risparmi delle famiglie, ha detto no alla sofisticazione, ai prodotti finanziari appunto particolarmente sofisticati, sui quali non si ha praticamente ormai quasi più nessun controllo e anche la Consob non può fare molto quando questi finiscono nelle mani dei risparmiatori. E poi ha detto no anche alla dittatura dello spread. Siamo troppo condizionati da questa, le nostre paure sono sintetizzate in questo momento da un'unica parola: spread. I cittadini non vogliono pagare per scelte che non hanno contribuito a prendere. E dunque noi oggi commenteremo le dichiarazioni del presidente della Consob, di Giuseppe Vegas, la sua seconda relazione annuale, la prima è stata naturalmente quella dell'anno scorso, a 4 mesi appena dalla sua nomina. Chi saranno con noi questa mattina? Due persone che il mercato lo masticano molto bene, e allora io ringrazio e saluto per essere con noi quest'oggi il professor Raffaele Lehner, avvocato partner dello studio Freshfields e docente di intermediari finanziari all'Università di Roma Tor Vergata, che tra l'altro ha preso anche parte al tavolo di semplificazione Consob del quale parlavamo poco fa. Avvocato, professore, come devo chiamarla? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Equivalgono i due termini, insomma, quale preferisce? È uguale. Tra l'altro l'avvocato Lehner è proprio a Palazzo Mezzanotte e ha terminato poco fa proprio di seguire in diretta i lavori della relazione annuale del presidente della Consob. E poi, siccome si è parlato anche direttamente di risparmi delle famiglie, di risparmi appunto che rischiano di essere bruciati per l'innovazione finanziaria che ormai è diventato un fenomeno non più controllabile, ha fatto anche un riferimento diretto il presidente Vegas al caso JP Morgan scoppiato la settimana scorsa. Noi ci interessa proprio capire anche se sono state convincenti le parole del presidente della Consob sulla necessità di tutelare maggiormente il risparmio, e ne parleremo di questi aspetti con Cesare Nistri, consulente finanziario indipendente, che saluto. Dottor Nistri, buongiorno e grazie di essere con noi. Ci sente? Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie molte. Allora, ovviamente ci piacerebbe anche sentire la vostra, sentire i vostri commenti, che come sempre potete lasciarci intanto al 349-238-6666 se ci volete rivolgere dei messaggi. Se volete invece intervenire in diretta potete prenotarvi al numero verde 800-24-0024, è appunto il numero al quale siete assolutamente molto affezionati. Potete scriverci delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure andare ad animare il dibattito che molti ascoltatori generalmente appunto organizzano sui temi che scegliamo di approfondire, anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Tanto per infierire ulteriormente sulle problematiche delle risparmie e dell'investimento, andiamo a vedere un po' questa mattina in borsa che succede, ma insomma le notizie principali ve le ho già date nel giornale radio. È una pessima giornata, settimana si apre malissimo per i mercati, non è che settimana scorsa fosse andata meglio, nonostante appunto il recupero delle ultime sedute. La situazione greca pesa tantissimo, ormai sembra che qualcuno sia del tutto assolutamente convinto dell'uscita a breve della Grecia dalla zona euro e ritorno alla divisa, alla dracma. Non c'è nessuna possibilità di trovare un accordo politico per formare un esecutivo solido capace di mettere in pratica tutte le richieste di austerità che sono state appunto avanzate dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea, affinché poi possano a loro volta garantire le tranche di aiuti finanziari accordati alla Grecia per evitare la bancarotta. E quindi insomma sembra un destino segnato di fronte al quale il mercato reagisce con questi cali oggi assolutamente marcati. Anche il risultato elettorale tedesco e la sconfitta di Angela Merkel penalizza i listini, non penalizza tanto Francoforte, paradossalmente meno 2% per il listino tedesco, mentre sono più pesanti le altre piazze, particolarmente Milano, che ha superato i 3 punti di ribasso, esattamente come è successo alla Spagna, adesso recupera e tuttavia meno 2,91%. C'è stata un'asta di titoli di Stato questa mattina, il Tesoro ha collocato senza problemi BTP a 3 anni e tra l'altro anche il tasso di rendimento è rimasto stabile al 3,91% dal 3,89% dell'asta analoga di aprile. La domanda è stata molto alta, per cui da questo punto di vista tutto tranquillo. Meno tranquillo invece il versante spread, la dittatura dello spread, ha parlato appunto in questi termini Giuseppe Vegas, che è volato a 431 punti base questa mattina, poi è sceso leggermente dopo l'asta di cui vi parlavo poco fa, ma la tensione è ritornata elevatissima. C'è però anche da precisare che questa divaricazione così accentuata stamattina è stata determinata anche dal fatto che i bund tedeschi, i titoli di Stato tedeschi sulla scadenza decennale, hanno toccato in termini di rendimento il nuovo minimo storico all'1,47% dopo l'1,51% di venerdì scorso, e quindi si infiamma la corsa ai beni rifugio alla luce dell'impasse politica che si sta registrando in Grecia, ma è questo il motivo diciamo che ha prevalentemente portato, come ripeto, a questo ampliamento dello spread. Non è stata colpa nostra che abbiamo visto un aumento dei nostri rendimenti sul fronte dei titoli di Stato a scadenza decennale, è più colpa tedesca oggi. È una buona notizia, una cattiva notizia, non lo sappiamo. Di fatto la tensione è alta. Chiedo subito all'avvocato Lehner di raccontarci appunto qual è la sua sensazione rispetto ai temi toccati dal presidente della Consob, poi vi faremo sentire, lo dico ai nostri ascoltatori, alcuni tratti salienti appunto della sua relazione, soprattutto negli aspetti che ci interessano di più, le tutele del risparmio, del piccolo risparmio e la tutela appunto delle famiglie che risparmiano e famiglie che sono molto penalizzate da troppo tempo a questa parte dagli eccessi dell'innovazione finanziaria. Avvocato, quali sono i tratti della relazione di Vegas che l'hanno colpita di più? Io l'ho trovata nel complesso una relazione estremamente interessante, coraggiosa e propositiva, diciamo innovativa sotto tanti aspetti rispetto a queste relazioni sono spesso molto paludate e formali. Dal punto di vista mio di giurista ci sono due cose molto veloci che vorrei segnalarvi, perché sono effettivamente dei cambiamenti di rotta. Da un lato lui riconosce che diventa complesso per il legislatore, ma anche per il regolatore secondario come la Consob, valutare davvero l'entità dei rischi in sistemi finanziari sempre più complessi e sempre più evoluti e articolati, e perciò in cui aumentano le aree grigie. Quindi diciamo è quasi una dimostrazione di impotenza. Lui dice è difficile anche per noi regolare bene, cercando di tutelare al massimo l'interesse del mercato e dei risparmiatori, prodotti nuovi. E il secondo passaggio, che lei però già accennava in realtà, è la domanda se alcuni tipi di innovazione finanziaria che per adesso avevamo tutti quanti sempre guardato come auspicabili e positivi in generale, lo siano veramente, cioè siano veramente un bene, non siano piuttosto un male, e non sia forse arrivato il momento in cui invece di puntare solo sulla trasparenza si deve avere il coraggio di introdurre divieti, perché molto sinteticamente tutta la disciplina anche comunitaria, pensiamo alla direttiva sui mercati finanziari che viene in gergo chiamata MiFID, è una disciplina che pone degli obblighi di trasparenza e che sostanzialmente dice puoi collocare gli strumenti finanziari che vuoi, prodotti anche più articolati, purché tu li spieghi bene e sei sufficientemente trasparente e chiaro nel presentarli al mercato. Questo oggi si cerca, sì, almeno il segnale che ha dato Vegas, ma è un segnale forte già a livello comunitario, è che forse siamo arrivati a un momento di un passaggio ulteriore e più forte. Allora, sentiamolo, la interrompo, avvocato Lehner, direi di ascoltarlo questo passaggio della relazione del presidente della Consob sul tema della speculazione finanziaria, che dice non è sempre governabile dalle autorità di vigilanza. Negli ultimi anni il sistema finanziario ha in parte derogato alla fondamentale funzione di canalizzare il risparmio verso l'economia reale e lo sviluppo. Le dinamiche di mercato, caratterizzate da bolle speculative e scandali finanziari nei principali paesi, hanno condizionato in maniera crescente l'andamento dei prezzi rispetto alle dinamiche reali sottostanti. I processi di innovazione finanziaria, inoltre, pur ampliando le possibilità di investimento e diversificazione di portafoglio per i risparmiatori, fanno emergere nuove fonti di rischio non sempre governabili dall'autorità di vigilanza. Fonti di rischio rese note proprio in questi giorni relative a una grande banca d'affari. Il riferimento di Vegas naturalmente era questa perdita enorme da 2 miliardi di dollari che JP Morgan ha scoperto la scorsa settimana di avere in pancia proprio per aver male operato in prodotti derivati. Tante volte appunto queste operazioni sono anche difficili da spiegare agli ascoltatori. Di fatto, tra l'altro, questo nuovo terremoto nella finanza della settimana scorsa ha anche contribuito ad accelerare le perdite che già il settore finanziario da qualche giornata era ritornato ad avere. Dobbiamo andare già in pausa, tra poco però un primo commento a Cesare Nistri lo chiedo e gli chiedo se dal punto di vista suo, della sua professionalità, visto che segue proprio per lavoro ogni giorno patrimoni e investimenti di piccoli e grandi appunto risparmiatori, gli chiedo se sono convincenti le parole del presidente Vegas sul tema della necessità di intensificare il controllo sulla sofisticazione finanziaria, perché questa è ormai palese, sta danneggiando il risparmio delle famiglie, se condivide quanto diceva prima l'avvocato Lehner sul fatto che c'è stato anche questo passo avanti nella relazione del presidente della Consob, dice occorre appunto maggior coraggio in questo esercizio di controllo. Che cosa ne pensa? Ma condivido sostanzialmente la posizione del professor Lehner, soprattutto devo dire che non sorprende il fatto che Vegas abbia del resto, come dire, confermato quella che è la difficoltà per i risparmiatori, ma non solo per i risparmiatori, addirittura per l'autorità di vigilanza, andare a monitorare oltre che a controllare quella che è come dire, la generazione nel tempo di prodotti finanziari nuovi. Che JP Morgan poi perda soldi non è questo ovviamente il problema per i risparmiatori, il problema è che JP Morgan ovviamente utilizza anche il denaro dei depositanti o comunque dei suoi finanziatori, questo crea un grosso problema nell'ambito del sistema e soprattutto al risparmiatore finale, che sempre più peraltro si trova allo sportello con prodotti relativamente complessi. E infatti, Nistri, guardi, la interrompo, poi continueremo ad approfondire questi temi. Ha fatto bene a ricordare il fatto che poi molto spesso allo sportello i piccoli risparmiatori si ritrovano prodotti di cui non riescono a capire le dinamiche. Uno di questi, e Vegas l'ha citato e poi noi ascolteremo direttamente questo passaggio della sua relazione, è rappresentato dagli ETF, prodotti nati qualche anno fa che venivano presentati al mercato e alla platea degli investitori per la loro dinamica talmente semplice, perché erano dei derivati di appunto profilo estremamente comprensibile, replicavano identicamente dei sottostanti, poi magari vi ricorderemo come funzionano appunto questi prodotti, oggi sono diventati invece molto più complessi di tanti altri prodotti finanziari già complicati e quindi bisogna raccomandare di nuovo alle famiglie di cominciare a stare alla larga da questi prodotti, e al punto tale che addirittura anche la Consob ha raccomandato la massima prudenza sull'utilizzo di questi strumenti di investimento all'interno dei portafogli delle famiglie. Eccoci ritrovati in diretta a Salvadanaio, stiamo commentando la relazione annuale del presidente della Consob Giuseppe Vegas, la cerimonia di presentazione della relazione si è conclusa proprio poco fa, un appuntamento annuale che si svolge in Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte. Abbiamo già avuto modo di commentare alcuni passaggi più interessanti appunto della sua relazione di Vegas, che si è soffermato soprattutto sul tema dei processi di innovazione finanziaria, che ha detto, pur ampliando le possibilità di investimento e diversificazione di portafoglio per il risparmiatore, fanno emergere nuovi fonti di rischio, tema che stiamo commentando con i nostri ospiti questa mattina, il consulente finanziario indipendente Cesare Nistri e l'avvocato partner dello studio Freshfields Raffaele Lehner. Ma siamo collegati adesso anche con il nostro inviato in Borsa Italiana, Simone Spezia. Simone, buongiorno. Buongiorno Deborah. Allora, il tema centrale della sua relazione, della relazione di Vegas, sulla quale immagino già domani titoleranno molti giornali, abbiamo avuto modo di rimarcarla, ci siamo già soffermati anche a lungo, Simone, sul tema della dittatura dello spread, che stamattina si sta esercitando al suo meglio naturalmente. Ci vuoi raccontare un po' meglio la questione dell'innovazione finanziaria, visto che tu hai sentito in diretta la relazione di Vegas? Sì, il presidente Vegas ha deciso di metterci naturalmente un'attenzione particolare. La frase chiave che potremmo riferire per indicare quanto sia considerato chiave questo aspetto è la frase nella quale si dice che l'innovazione finanziaria brucia il risparmio, almeno rischia di bruciare il risparmio. Insomma, il concetto è, abbiamo tra l'altro intervistato Vegas proprio poco fa, ci ha detto sostanzialmente non tutta l'innovazione è buona e quindi bisogna fare attenzione a che tipo di innovazione è e soprattutto muoversi in una direzione di regolamentazione maggiore, dal lato degli ETF che tu già citavi, dal lato per esempio del cosiddetto high frequency trading, ossia questo sistema di trading basato su algoritmi matematici per il quale si scambiano con differenze di prezzo minime tra diverse piattaforme enormi quantità di titoli, il che naturalmente può muovere il mercato in maniera pesante ed essere molto pericoloso per i risparmiatori. Questo il lato ha citato anche come esempio i cosiddetti credit default swap nudi, ossia quelli che questa sorta di assicurazioni dal default di un paese o di un'azienda che non hanno il cosiddetto sottostante. Dunque, secondo me possiamo sentire anche direttamente dalla relazione di Vegas che cosa ha detto. Legislatori e autorità hanno il dovere di evitare che l'innovazione finanziaria si trasformi in un meccanismo che brucia i risparmi delle famiglie. Legislatori e autorità devono chiedersi se alcuni tipi di innovazione rappresentino per i risparmiatori un bene o un male. Nel secondo caso, non devono avere remore intellettuali a opporre semplicemente divieti alla diffusione di prodotti e pratiche nocive, anche per evitare ricadute sistemiche. Con riferimento ai profili di rischio connessi all'innovazione finanziaria, occorre citare gli Exchange Traded Funds. Si tratta di fondi di investimento quotati che replicano un indice di mercato e si hanno conosciuto un rapido sviluppo anche nel nostro paese. Sorti originariamente come prodotti semplici a basso rischio, hanno subito rapide mutazioni nelle pratiche gestionali e nelle modalità di replica degli indici, mutazioni che li hanno reso prodotti complessi, portatori di nuovi rischi di liquidità e di controparte. La complessità e la rischiosità crescenti di tali fondi richiedono un attento esame da parte delle autorità di vigilanza. Allora, volevo chiedere a Cesare Nistri se ci sono molti dei clienti di cui segue gli investimenti e i patrimoni che chiedono questi prodotti, se ne capiscono la dinamica e quanto del suo tempo deve spendere per far comprendere ai suoi clienti che questi prodotti oggi sono diventati un po' più complicati del passato e che forse qualche volta bisogna dire anche di no, anche se magari riescono a garantire qualche extra rendimento in più proprio in virtù della loro, articolazione finanziaria. Nistri. Dunque, diciamo che l'ETF ovviamente va sempre confrontato con ciò che c'è di alternativo per investire in una determinata area geografica, in un determinato settore. Va detto che normalmente il risparmiatore comune, il risparmiatore medio, in media cultura finanziaria, non ha tutte quelle che sono tutti quegli elementi per comprendere da solo magari in modo sufficientemente approfondito il funzionamento dell'ETF. Ma devo dire che questo vale anche per altri tipi di strumenti finanziari, spesso l'ETF non è presente nei nostri clienti nuovi, diciamo così, perché ovviamente come strumento, essendo poco vantaggioso dal punto di vista commissionale per l'intermediario, per le banche, certo, non viene proposto con frequenza. Va detto però che ETF, questo ovviamente il mio parere personale, è però a mio avviso forse uno dei pochi casi di innovazione finanziaria, come dire, degli ultimi 10-15 anni che hanno apportato, come dire, un'effettiva utilità per il risparmiatore finale, andando a lasciando la possibilità di investire in determinate asset class, azionari, obbligazionari e via dicendo, a costi inferiori rispetto a quelli che erano soprattutto in precedenza. E infatti volevo ricordare, magari Nistri se mi aiuta in 20 secondi molto rapidamente, che cos'è un ETF, che era uno strumento molto simile, almeno all'inizio, ad un fondo comune di investimento che si può negoziare in borsa come se fosse una semplice azione, appunto hanno una struttura commissionale molto bassa proprio perché non c'è una gestione attiva, non c'è un gestore che sceglie quali società inserire all'interno del fondo. Esattamente, viene replicato come sottostante l'ETF, che di fatto è un fondo proprio dal punto di vista anche normativo, viene replicato un indice di riferimento che può essere un indice azionario, obbligazionario o addirittura materie prime. All'inizio sono nati gli ETF con la replica fisica, quindi come dicevo con un sottostante fatto dai singoli titoli che compongono l'indice. Purtroppo, e questo è un po' il contro di ciò che a mio avviso è successo negli ultimi anni, c'è stato un cambiamento in questo, nel senso che sono nati gli ETF che replicano in modo sintetico, cioè con derivati, quello che è l'andamento di un indice. E quindi da lì nasce evidentemente questo monitor, questo riflettore che la Consob ha deciso di accendere ed enfatizzare. Tra l'altro ce ne sono alcuni, anche ho avuto modo di parlarne nel corso della mia trasmissione, alcuni che replicano l'andamento di un determinato paniere di valute, oppure i tassi di interesse sono diventati davvero complessi, sono molto lontani appunto dallo spirito originario con il quale questi prodotti si sono affacciati sul mercato, perché questo va riconosciuto. Allora devo già fare la seconda pausa, oggi davvero la trasmissione sta volando, però magari sento un ascoltatore prima, così poi riprendiamo anche i temi della regolamentazione con l'avvocato Lehner. Mauro da Firenze, buongiorno, rapidissimo se ce la fa, la ringrazio. Sì, buongiorno, volevo semplicemente dire che in Italia siamo pieni di organi di vigilanza e di controllo che vigilano poco e controllano ancora meno. Voglio dire, cosa ci stanno a fare questi presidenti della Consob? Adesso c'è Vegas e poi c'è stato Spaventa, il dottor Pazzi. Di che cosa si lamenta? Tra l'altro nomine tutti di estrazione politica. Vabbè, ma questo lo sappiamo, ognuno Mauro. La sua parrocchia di riferimento. E noi piccoli risparmiatori che invece con il nostro risparmio sudato, non rubato, sudato, potremmo sostenere la nostra economia nazionale attraverso un investimento almeno in parte dei risparmi accumulati. Mauro, lei si ritiene non tutelato, mi sente, si ritiene non tutelato per un caso specifico, oppure adesso a prescindere dalla considerazione generale? Cirio, Parmalat, Giacomelli, ora ultimamente Fondiaria Sai con i prestiti fatti agli azionisti di riferimento, i piccoli azionisti e i risparmiatori che dovrebbero essere la spina dorsale dell'economia di questo paese vengono costantemente turlupinati, non sono assolutamente tutelati e garantiti. Mauro, la ringrazio, sono considerazioni che per la verità con il professor Lehner ci eravamo già preparati, soprattutto il caso Fondiaria Sai, l'ho anche citato all'inizio della trasmissione, ci sono a volte delle vicende di alcune società quotate che fanno letteralmente schizzare verso l'alto, verso il basso i valori dei titoli, senza che Consob fermi queste negoziazioni impazzite. Ci chiediamo appunto qualche volta se in questo l'autorità di vigilanza manchi. Professor Lehner, allora, docente di intermediari finanziari, Università di Roma Tor Vergata, un ascoltatore sollevava la questione di una tutela non completamente per quello che riguarda le vicissitudini di piccoli risparmiatori negli ultimi anni, particolarmente ferrea da parte della Consob. Ha citato dei casi di risparmio tradito clamorosi, arcinoti a noi tutti, Cirio, Parmalat, Giacomelli, un caso più piccolo. Dopo questi casi effettivamente la Consob ha stretto un po' i cordoni, per esempio per quello che riguarda la pubblicazione dei prospetti informativi di determinati prodotti di investimento, ma in molti lamentano non è stato sufficiente. Che ne pensa? Ma guardi, molto rapidamente, il problema c'è, è evidente. Faccio notare che oggi di nuovo si riflette su una maggiore efficienza delle autorità di vigilanza. Si è fatto molto cambiando le autorità di vigilanza a livello comunitario, oggi si riparla di una modifica a livello anche italiano, modifica che si era pensata anni fa e non era stata fatta. C'è un passaggio molto breve, veloce nella relazione di Vegas, però che non è stato enfatizzato ma sufficientemente chiaro su questo punto, quindi attribuendo meglio le competenze ai diversi organi di vigilanza, perché non è detto che vigilare in 10 sia meglio che vigilare in 2, quindi sono d'accordissimo con l'ascoltatore. Farei notare che sono fenomeni complessi spesso, per cui la regolamentazione ex ante a volte sfugge, non è semplice. I fenomeni Parmalat Cirio furono molto interessanti, si trattava di una vendita di obbligazioni non tutelata per una serie di ragioni, lì c'è stato un intervento specifico fatto purtroppo dopo, ma quello sufficiente secondo me ad evitare che possano riprodursi per il futuro fenomeni come quello. E su altre vicende la regolamentazione è difficile, noi citavamo adesso il cambiamento repentino di valore dei titoli, con particolare riferimento a questa operazione Fonsai Unipol, verissimo, ma se si dice la Consob potrebbe sospendere i titoli dal listino, giusto, potrebbe farlo, però tenete presente che nei mercati anglosassoni più efficienti la sospensione non c'è. Quindi perché si pensa che il mercato si regola da solo e che i risparmiatori devono essere posti nelle condizioni di poter anche sfruttare queste variazioni di prezzo connesse a interesse di acquisto o di vendita di una gran quantità di titoli della maggioranza o del controllo di un'emittente. Quindi di nuovo torniamo sullo stesso problema, che è un problema di efficienza del mercato, di chiarezza delle informazioni diffuse e direi anche di applicazione effettiva delle sanzioni, perché noi norme sanzionatorie le abbiamo e si tratta di applicarle concretamente. Vegas, qui chiedo a Fabio se gentilmente prepara il prossimo file, che poi sarà anche l'ultimo perché la trasmissione sta già volando verso il termine. Il presidente della Consob, dicevo, ha spiegato che l'autorità punti di vigilanza ha svolto delle ispezioni su 8 banche italiane per pratiche commerciali. Sentiamo nel dettaglio cosa ha detto, poi cercheremo di capire anche per quale motivo. È proseguita l'azione di controllo della distribuzione dei prodotti finanziari con lo scopo di rendere i comportamenti degli intermediari sempre più coerenti con lo spirito della MiFID, perseguendo il migliore interesse del cliente. Specifica attenzione è stata pertanto riservata alle politiche distributive e ai sistemi di incentivazione del personale degli intermediari. La Consob ha svolto ispezioni mirate, a seguito delle quali ha evidenziato ai soggetti controllati e in particolare agli 8 principali intermediari bancari la necessità di rivedere le strategie commerciali e le procedure interne per assicurare una corretta prestazione dei servizi di investimento. Ciò a testimonianza della crescente esigenza di responsabilizzare gli intermediari al fine di garantire un'effettiva tutela ai piccoli risparmiatori. Nistri, chiedo un commento a lei. Bello, naturalmente tutto interessante che la Consob svolga queste ispezioni che poi si traducono anche in richieste di intervento e di cambiamento di rotta agli intermediari finanziari, ma mi sembra sempre che questi lavori vengano fatti dopo che i buoi sono scappati dal recinto, come si suol dire con un proverbio strausato. Insomma, lei che cosa pensa di questa questione legata alla corretta prestazione dei servizi di investimento? È necessario un intervento della Consob affinché un intermediario bancario e finanziario lo faccia? Non dovrebbe essere nella normalità della sua quotidianità di lavoro quando fa consulenza finanziaria appunto ad un cliente? Nistri. Ma dunque, sì, direi che sostanzialmente, così come la Consob non riesce a intervenire in modo preventivo su quelli che sono i nuovi prodotti finanziari per capirne l'eventuale lato negativo per il risparmiatore, allo stesso modo si trova a dover fare ispezioni solo successivamente al fatto che determinate strategie commerciali, peraltro anche ben visibili in molti messaggi pubblicitari, siano state già implementate e abbiano già coinvolto risparmiatori sicuramente in grande quantità. Devo dire che in tutto questo mi spiace dover evidenziare che non è stato fatto peraltro nessun accenno alla categoria di cui faccio parte all'interno della relazione Consob, dato che Consob stessa dovrà, io spero, dato che è in attesa dal 2006, far partire il famoso albo dei consulenti indipendenti. Sì. È ovvio che poi le banche, giustamente da un certo punto di vista, scelgono le strategie commerciali che ritengono più remunerative nel tempo. Va detto però che ad esempio l'autorità inglese, l'equivalente della nostra Consob, già da tempo sta spingendo, come dire, un certo cambiamento di rotta proprio nella normativa per quanto riguarda il comportamento degli intermediari e soprattutto quello che è il modo con cui si fanno remunerare dai clienti. Ecco, allora, io tra l'altro stamattina veramente abbiamo aperto tante parentesi e difficilmente forse ne abbiamo chiuse tutte quante in maniera esaustiva. Abbiamo cercato solamente di dare così rapidamente un'idea ai nostri ascoltatori di quante cose sono state dette questa mattina nella relazione di Vega. Se non riesco a far intervenire Franca da Torino, che comunque voleva lamentare il fatto che la Consob dice è un ente che non ascolta la gente, 10 secondi al professor Lenner prima di concludere. Il presidente della Consob ha fatto riferimento anche al fatto che il listino di Borsa Italiano è molto povero, ci sono tante revoche volontarie ma soprattutto poche società, quasi nessuna, quest'anno solo due che si quotano. 10 secondi, professore, un commento su questo. È verissimo, il mercato è troppo piccolino, ma c'è sfiducia e come si vede in momenti di difficoltà c'è in realtà una corsa al delisting. Bisogna spiegare e bisogna convincere però gli emittenti, ma anche i risparmiatori e gli intermediari, che la quotazione conviene, che non è soltanto un caricare gli emittenti di costi e orpelli che poi devono ribaltare su chi gli compra i titoli. Grazie molte, domani con voi c'è Valentina Furlanetto, buona giornata a tutti.